Primo giorno della prima luna, anno del coniglio, 1915. Cara nipote, vorrei non condividere le tue paure per Giada lucente che mi hai descritto nella lettera dell'anno scorso. Se le ragazze dei cortili interni sono versioni in miniatura delle loro madri, tua figlia è la versione cinese della missionaria, armata di scarpe robuste, tutta dedita alle opere buone. Non è avventata come te, non è idealista come suo padre. Ma è bene che mi fermi qui, forse ho troppi pregiudizi. Le pubblicazioni della Nuova Cina ora sono ben avviate. Ti includo diversi nostri libri che ti potranno essere d'aiuto nel tuo lavoro. Il giovane fratello si assenta spesso da Shanghai. Non mi dice dove va, ma io sono sicuro che non fa che complottare. È inutile cercare di fermarlo. Ora che i giapponesi si sono uniti agli alleati, hanno preso Tsingtao, mentre a Pechino il cosiddetto governo di Yuan si limita a guardare. Mio fratello ha sempre disprezzato i nani marrone. Pensa che Tsingtao stuzzicherà soltanto il loro appetito e che cercheranno di mettere le mani su altro territorio cinese. Temo che abbia ragione, ma cosa possiamo fare per fermarli? Un felice anno nuovo a tutti, tuo zio. Primo giorno della prima luna, anno del coniglio 1915. Caro zio anziano, la cara Ciccia se n'è andata e ora è sepolta accanto al vecchio falco nel villaggio delle canne. È successo il quarto giorno della decima luna. Ha lavorato dal mattino alla sera, consumato un pasto abbondante, visto un'opera e non si è più risvegliata. Non mi sembra improbabile che sia stata lei a voler morire così. Era stata molto esplicita in merito al funerale. Il suo argomento di conversazione preferito negli ultimi mesi. Non sprecare denaro e tieni tutto quello che mi appartiene. Diceva, non c'è senso regalare della seta ai vermi o ad attirare i ladri di tombe con la spilla d'oro donatami dalla matriarca. Basteranno i miei abiti da lavoro e una semplice bara di legno di pino. A cosa serve che un gambero si metta una coda di drago? Pur volendo coraggiosamente evitare i costosi orpelli di un funerale tradizionale, voleva cautelarsi contro la remota possibilità di aver bisogno nell'altra vita degli agi di questa, così mi fece promettere di procurarle un lum cherbis. Farò tutto quel che vuoi, come ho promesso. Ma cos'è? Una cosa meravigliosa, ha detto. Ah, Sing, che fa la serva nella grande casa degli stranieri, l'ha vista durante il suo viaggio in America con quelle famiglie. In ognuna di quelle case ammassate le une alle altre in cui ha abitato, c'era una scatola parlante e in ogni ora del giorno e della notte la padrona poteva ordinare quel che voleva attraverso il lum cherbis. Come mi manca! Ma chissà quale confusione celeste sta provocando col suo telefono. Felice anno nuovo a tutti, tua nipote. Primo giorno della prima luna, anno del drago 1916. Cara nipote, ti scrivo dal convento della ricerca pacata dove sono venuto per vivere in solitudine. La notizia che Yuan ha accettato il mandato del cielo ha portato me e mio fratello a Pechino per contestare le 21 richieste del Giappone. Forse lo avrai già incontrato. Che cosa ne è stato della rivoluzione? Abbiamo forse prosciugato il lago per impadronirci della luna in tutti questi anni? Non so quanto resterò qui. Con tutto quel che è accaduto al paese, non sembra esservi motivo di tornare a Shanghai subito dopo le vacanze. Adesso abito in un padiglione in mezzo ai boschi. Con 5 passi posso percorrerlo in lungo e in largo, una semplice brandina, una sedia, un tavolo, alcuni utensili e una stufa completano la mia casa. Davanti alla porta, ammucchiati ordinatamente da un lato, vi sono fasci di rami e pigne per alimentare il braciere. Oltre le grondaie del tetto, vi sono vasi di terracotta con l'acqua piovana. Sento le campane del tempio, ma vedo soltanto alberi e collinette. Monache silenziose mi portano il cibo. La carne manca, ma le verdure sono cucinate in modo da assomigliare alle pietanze più gustose di pollo, maiale e manzo. Questa mattina è cominciata con un cielo azzurro e una massa di nuvole in lontananza. Ho indossato 5 strati di indumenti e mi sono seduto accanto alla porta aspettando l'arrivo della neve. Poco a poco il grigio ha vinto l'azzurro, velando il cielo, mentre l'orizzonte scompariva in lontananza. La scena che si offriva ai miei occhi si è sempre più chiusa su di me, finché sono rimasti soltanto i fiocchi che fluttuavano dentro i vasi. Ho Li ho contati, poi ho raccolto la neve, l'ho messa nel bollitore e mi sono preparato un tè. Proteggendo con le mani il calore della tazza, ho gustato la differenza. Non ho altro da dire, tuo zio. Primo giorno della prima luna, anno del drago, 1916. Zio anziano, ho poche notizie da darti. Il mio lavoro va bene, ma la vita non è più la stessa da quando Ciccia se n'è andata. La sua presenza qui mi dava il calore di un intero clan. Ora che lei non c'è più, la casa è affollata di spettri. Il giovane zio è venuto a trovarmi alcuni giorni fa. Mi è sembrato invecchiato, all'improvviso, un uomo di mezza età. Mi ha detto soltanto che è venuto qui per protestare contro le 21 richieste del Giappone, ma sospetto che ci sia dell'altro. Perché dovrebbe correre il rischio di farsi arrestare mentre gli studenti già marciano per le strade? Mi auguro che non abbia dimenticato così rapidamente la lezione dello Yamen. Eppure, chi può negare che Yuan, autonominandosi imperatore, non abbia trasformato la Repubblica in una farsa? Anziché di politica, abbiamo parlato della famiglia. Ricordi le sedie di palissandro lungo le pareti della sala degli antenati? Ci sono ancora? Il giovane zio pensa che siano state vendute. Le carpe non ci sono più, mi ha detto. Ma sono rimasti gli alberi nani nei loro vasi e i leoni di bronzo al cancello. Ciò mi conforta. Un felice anno nuovo a tutti. Tua nipote. Primo giorno della prima luna. Anno del serpente 1917. Cara nipote, vista gloriosa, studia a Harvard in America. Chissà se ha notato che io sono rimasto sul molo finché la nave è scomparsa. Così rimase anche il venerabile accanto ai leoni il giorno in cui cominciai il mio viaggio verso l'Occidente. 20 d'agosto, ora vive a Shanghai. Non so dove sia stato in questi 5 anni, ogni volta dà una versione diversa della sua storia e comunque ha imparato l'inglese. Quando mi ha scritto del suo impiego presso la MS & Company nella concessione francese, l'ho invitato a stabilirsi da me e, benché abbia rifiutato, viene spesso a cena. Con la sua irrefrenabile impertinenza ha riportato un po' d'allegria nella mia vita. Ciò non significa che lo approvi più di quanto l'approvassi quando era un giovane briccone che barava a carte, sottraendo la mancia ai portantini. Ma emana una simpatia innegabile. L'altra settimana mi ha preso fra le braccia, insegnandomi a ballare il tango mentre lui canticchiava il motivo. Non riesco a capacitarmi di come sia riuscito a farmi assumere un atteggiamento tanto poco dignitoso. Ma nessuno ci ha visti, e ora che sono al sicuro a Suzhou per le vacanze, penso che tutto sommato sia stato divertente. Benché non abbia molti più anni di vista gloriosa, non assomiglia lontanamente a nessuno dei miei 2 figli. Nonostante la sua passione per tutte le cose straniere, 20 d'agosto non mi riterrebbe mai vecchio come Confucio, perché l'anno scorso e di nuovo quest'anno mi sono rifiutato di sostituire 3 inchini riverenti al kutu nelle cerimonie di famiglia, come molti hanno fatto. Il rito del kutu mi riempie di umiltà e orgoglio. E allo stesso tempo personale e astratto, congiungendo mortalità e immortalità. Non sarà il patriarca a cambiare questa tradizione. Se mio figlio vorrà farlo, a suo tempo lo faccia pure, per il momento continuerà così. Tutto è troppo incerto ora. Yuan è morto, ma la Repubblica era già persa. Sembra che in tutto il paese trionfino uomini astuti, non colti, uomini d'arme, non virtuosi. E perciò si scatena il Yuan. Il nord contro il sud, l'est contro l'ovest, un capo contro l'altro, un interesse contro l'altro, una generazione contro l'altra. Perciò ancora più fervido è il mio augurio di un felice anno nuovo a voi tutti, tuo zio. Primo giorno della prima luna, anno del serpente, 1917. Caro zio anziano, mia suocera è gravemente malata. Ho lasciato il mio posto di insegnante per essere con lei notte e giorno. È una morte sofferta e io temo che l'attenda un viaggio penoso. Un felice anno nuovo a tutti, tua nipote. 24. Il giusto nome. I cantastorie ciechi conoscono migliaia di storie e ascoltandole la gente spesso piange per la dolcezza delle note del loro pi, pa, e per il carattere esemplare delle vite virtuose che si cantavano. Una storia narra di quattro che fuggivano la sferza dei barbari nel nord. Ben presto il figlio e il nipote furono troppo deboli per camminare. Il padre ne poteva portare soltanto uno e chiese alla madre di scegliere chi dovesse essere abbandonato. La madre virtuosa rispose: «Che sia nostro figlio, ne potremmo avere un altro. Ma tuo fratello è morto e il suo unico figlio deve vivere per nutrire il suo spirito nell'altro mondo». Racconto cinese. Le ultime foglie cadevano dagli alberi come farfalle assonnate quando Gioia di Loto si ammalò. Da quel giorno, Luna di Primavera curò la suocera affaccendandosi, sentendosi più utile quando c'era qualcosa, per quanto sgradevole o banale, da fare. Ogni rimedio suggerito fu adottato finché la camera fu affollata di bottigliette e scatoline di pillole. Nulla però era più efficace dell'oppio. Luna di Primavera imparò a conoscere i posti dove le si poteva acquistare nella sua forma più pura, a far girare la pallottolina con un ago sopra la fiamma e, quando era pronta, a inserirla nella pipa. Eseguiva questo rituale a tutte le ore, un giorno dopo l'altro, ogni qualvolta Gioia di Loto indicava con un cenno del capo il vassoio dove era disposto l'occorrente. Solo quando l'odore dolciastro aveva completamente saturato la stanza, la nuora chiedeva il permesso di uscire a prendere un po' d'aria. Spesso, sotto l'effetto della droga, Gioia di Loto parlava, rievocando brani di sogni e ricordi del passato. Altre volte Luna di Primavera riempiva il silenzio angoscioso leggendo il sogno della Camera Rossa o il libro delle Odi o i Sutra. Alla fine della quindicina del Grande Freddo capì che la suocera non sarebbe vissuta ancora molto. Durante i mesi di malattia si era consunta, il suo petto era diventato piatto come una tavola e le sue mani e la sua faccia si erano coperte di macchioline nere. I dottori si erano arresi e non venivano più. Se fosse morta quando era ancora in cura da loro, la colpa sarebbe potuta ricadere su di loro. Talvolta, Luna di Primavera si chiedeva se la morte non fosse auspicabile, rammaricandosi che qualcuno più saggio di lei non fosse lì a confortarla, e immaginava il letto vuoto, il copriletto di seta liscio, gli abiti ripiegati ordinatamente nell'armadio intriso del profumo della donna, una ciocca di capelli in un pettine, uno strato bianco di muffa che cominciava a macchiare le sue scarpe. Nulla di più, perché la terra avida avrebbe inghiottito il resto. Le pareti della stanza erano umide di agonia. Cercava di ricordare i tempi in cui nessuno di sua conoscenza era morto, quando la vita non aveva limiti e la morte era solo una parola, quando il nonno aveva fatto cantare per lei il suo uccello nel giardino e l'unica nota triste erano gli scrosci di pioggia nei cortili che ponevano fine ai giochi. Ora che aveva 35 anni, l'assaliva l'idea di essere a metà della vita, lontana tanto dal suo inizio quanto dalla sua fine. Presto, con la morte di Gioia di Loto, avrebbe assolto le sue responsabilità tradizionali di moglie e nuora, e dopo? Virtù Splendente le aveva chiesto di tornare a Sciucciao. Era quello il suo posto, insieme alle altre vedove. Ma allora che destino sarebbe toccato a Giada Lucente? Sembrava improbabile che sua figlia sarebbe rimasta a lungo con le donne, aveva certamente dei progetti suoi. «Madre, vorrei studiare in America come i miei cugini», aveva scritto. «Madre, diventerò medico. Non è forse il modo migliore per guarire l'umanità?» «Sì», aveva risposto Luna di Primavera, «sì». Ma era forse una professione adatta per una giovane donna? Madre, la risposta era giunta immediatamente, non vi sono differenze fra uomo e donna, non per coloro che sono veramente illuminati. Non hai saputo della brigata dei Gigli Dorati che hanno fatto irruzione a Nanchino quando è scoppiata la rivoluzione? I soldati manciù ridevano, ma sono stati ugualmente falciati. Luna di Primavera non aveva approfondito l'argomento. L'anno precedente aveva detto di voler diventare scienziata e 2 anni prima insegnante. Una sera in cui il vento gemeva come una vecchia in lutto, mentre soffiava fra i tetti gli hutong della capitale settentrionale, Gioia di Loto, dopo aver fumato diverse pipe, fece cenno a Luna di Primavera di avvicinarsi. «Figlia!» sussurrò la moribonda con voce rauca. «Figlia, portami il bambino!» «Sta delirando», pensò Luna di Primavera, «proprio come era successo a Salda Rettitudine nei suoi ultimi momenti». «Sono qua, Porpor, sono qua», disse a bassa voce. Dal comodino prese il balsamo del dragoncello e con delicatezza inumidì le sue labbra aride. Dapprima Gioia di Loto scostò la sua mano, poi la cercò e la tenne stretta. Ascoltami, ascoltami. Sì, Porpor, sono qua. Ora Luna di Primavera era allerta, spaventata. Nella voce della suocera c'era un affanno che non era provocato dal solo dolore. Era giunta la sua ora? Si chinò su di lei. Sono qui. Ora gli occhi della donna erano spalancati. Lo sforzo che faceva per tenerli aperti sembrava incommensurabile, sovrumano. Il suo respiro si fece affannoso. Figlia! Sì, Porpor. Figlia, va, portami il bambino. Sì, certo. Che follia era mai questa? Credeva di essere ancora giovane e chiamava suo figlio. Il tuo bambino, sussurrò. Il tuo bambino. Luna di Primavera non osava ancora sperare e scartava quell'ipotesi impossibile, ma Gioia di Loto le ordinò: portalo a casa, così che possa nutrire il mio spirito nell'altro mondo. Sarà il mio figlio adottivo, non dire altro. Luna di Primavera cadde in ginocchio, trattenendo a stento le lacrime. Fece cutù: Porpor, potrete mai perdonarmi? Potrete mai perdonarmi? Gioia di Loto non le rispose e sussurrò soltanto: Va subito, devo vederlo prima di morire. Sì, Porpor, lo vedrete. Nessuna risposta e le palpebre si abbassarono. Gioia di Loto si era addormentata. Il mattino, il vento non si era placato, ma Luna di Primavera non poteva ritardare il suo viaggio. Si procurò dei vestiti per un bambino, fece chiudere le finestre e ordinò alle serve di vegliare in continuazione sulla suocera durante la sua assenza. Poi, con la testa coperta e i pantaloni legati alla caviglia, partì per il suo viaggio. Era buio quando entrò nel villaggio dove aveva dato alla luce suo figlio. Non disse perché era venuta. Nel momento in cui aprirono la porta, capirono. Il bambino dormiva già. Lo avrebbe visto solo il mattino dopo. Prima di coricarsi, sedettero a bere una tazza di tè. Il bambino, in camicia, fiori rossi e pantaloni verdi, stava sulla soglia della sua casa. Accanto a lui la mamma e il papà, che gli avevano sempre lasciato un posticino caldo per dormire in mezzo a loro. Davanti a lui il carro e la bella forestiera che si faceva chiamare Sao Sao, cognata anziana. Gli occhi spalancati, la fissava mordendosi le labbra. Va, piccolo tesoro, ti abbiamo mantenuto abbastanza. Va con Sao Sao, là dove è il tuo posto. La voce della mamma era così stridula, innaturale, poiché lui non si muoveva, lo rimproverò. Vuoi farmi fare una brutta figura? Non ti abbiamo forse insegnato le buone maniere? Comportati bene e ubbidisci ai tuoi anziani. Va, sciocco! Gli diede una spinta. Va, ne abbiamo abbastanza di te. Piccolo tesoro guardò il contadino. La faccia di papà era addolorata, ma quando parlò le sue parole furono come quelle della mamma. Va ora, ragazzo, va! Il papà non era mai molto loquace. Il bambino si voltò, camminò e poi corse verso il carro, vi si arrampicò sopra. La signora lo seguì, poi si rivolse al guidatore dicendo: Ti prego, possiamo andare ora. Mentre il carro senza molle si metteva in moto bruscamente, sobbalzando lungo le buche della vecchia strada, Luna di Primavera, per la prima volta da quando lo aveva lasciato, toccò suo figlio attirandoselo vicino. Teneva lo sguardo fisso davanti a sé, cercando di mantenersi calma, ignorando le occhiate incuriosite dei paesani che se ne stavano immobili, se non per togliersi la polvere dagli occhi. Solo quando il mulo svoltò verso il canale dove aspettava la barca, Luna di Primavera si guardò indietro. Marionetta doveva essere entrata in casa, poiché l'instancabile stava solo sulla soglia, fissando il carro. Nella palma della mano aveva il sacchetto di cuoio e sul volto uno sguardo desolato come i campi d'inverno. Lei fissò di nuovo gli occhi sul bambino, lisciandogli il ciuffo ribelle con la mano. Con le monete d'oro il fratello Hua si sarebbe potuto comprare un altro figlio, molti figli. Questo bambino era suo, la sua carne, il suo sangue. Lui era destinato a una vita migliore della loro, una vita di studi, non di fatica. Per tutto il viaggio verso Pechino, Piccolo Tesoro non parlò mai e Luna di Primavera rispettò il suo silenzio, lasciandogli il tempo di essere triste. Al tramonto raggiunsero la casa della suocera. Le due serve la salutarono alla porta, allungando il collo per guardare bene quello strano bambino. Luna di Primavera fece loro cenno di andarsene. Per i viaggiatori avevano preparato del cibo, ma nessuno dei due mangiò. Luna di Primavera ordinò di riempire la vasca e Piccolo Tesoro si lasciò lavare. Stava nell'acqua, facendosi voltare come una bambola di legno, le braccia alzate, i piedi insaponati, gli occhi sempre fissi sulla faccia di lei. Nudo, mentre rabbrividiva per il freddo, sembrava vulnerabile, come quando gli aveva strappato via le fasce. Aveva la schiena diritta e le ginocchia ossute, e la pelle chiara come avorio era diventata color terra nei punti esposti al sole. Strofinandogli le gambe notò che la voglia blu, dove, secondo la tradizione, i magistrati dell'altro mondo avevano dato un calcio sul sederino riluttante del piccolo per mandarlo sulla terra, ora era scomparsa senza lasciar traccia. Lo avvolse in un ampio asciugamano, stringendolo fra le braccia, ma senza osare manifestare la sua tenerezza. «Ha bisogno di tempo», pensò, fiera che suo figlio fosse così fedele. Non c'è motivo di affrettarsi ora che il suo nome è Wu. Dopo avergli fatto indossare le vesti imbottite preparate per lui, lo mise a letto in un'alcova fuori della sua stanza. Aveva paura del buio, non lo sapeva, e dopo aver abbassato il lucignolo finché rimase solo una fiammella guizzante, lei si ritirò silenziosamente nella camera della suocera. Gioia di Loto dormiva un sonno agitato, di tanto in tanto scuoteva la testa come per dire «No, no!». Dopo un po', Luna di Primavera fece un cenno alla serva di turno e si ritirò. Era stato un lungo viaggio, ma non riusciva a prendere sonno. Giacque sveglia, osservando la luce della luna scorrere lungo le pareti della stanza e ripensando a Marionetta, la contadina terrorizzata, rannicchiata nel recipiente della pioggia. La bella giovane che le era accanto, tenendole una mano ogni volta che aveva partorito. Il ricordo più vivo che le era rimasto di lei era l'angosciato grido di lutto per la famiglia che le era stata strappata. «Oh mio cuore, oh mio fegato, perché ve ne siete andati?» Poco dopo che la guardia fu passata, intonando l'ora del topo, ci fu del rumore. Si voltò per guardare verso la porta. Una piccola ombra schizzò verso il suo letto. «Sao, sao!» La voce del bambino tremava. «Dormi? Al villaggio non dormivo solo!» Naturalmente, non c'erano i braceri a ceneri sapienti. Ed era sempre freddo. Lei aprì la sua trapunta. «Vieni, piccolo tesoro, c'è posto anche per te nel mio letto!» Dormirono fino a tardi e il mattino dopo, vestendolo, sorrideva timidamente, felice di potergli mettere addosso tanti strati di indumenti finché fosse ben caldo. Per un attimo pensò che lui le ricambiasse il sorriso, ma quando gli mostrò le scarpe nuove, il bambino scosse la testa e tornò nell'alcova. Al suo ritorno indossava le scarpe col muso di tigre cucito sopra che portava a ceneri sapienti. Insieme consumarono una colazione sostanziosa a base di frittelle e maiale e quando ebbero finito Luna di Primavera lo prese per mano e disse «Piccolo tesoro, io so che sei un bravo bambino, perché dentro di te c'è un vuoto che nessuna ciotola di riso può colmare, è vero?» Le lacrime gli sgorgarono dagli occhi e annuì. Lei respirò a fondo e continuò «E così deve essere. Devi parlarmi delle persone che conosci e dei posti di cui hai nostalgia, ti aiuterà e aiuterà anche me, promesso?» «Sì, Sao Sao». Che suono strano ha quel nome, pensò, eppure era bello perché soltanto lui l'avrebbe chiamata così. «Piccolo tesoro, c'era qualcosa a ceneri sapienti che dovevi fare ogni giorno?» «Oh sì!» esclamò lui, «raccogliere rami per il fuoco, spazzare il cortile, dar da mangiare ai maiali». «Beh, anche qui avrai qualcosa da fare. È più importante dei compiti che avevi prima. È molto difficile. Non molti ragazzi della tua età potrebbero riuscirvi». E si interruppe come se aspettasse un cenno d'intesa da parte sua. Lui sembrava perplesso, ma non spaventato. «Piccolo tesoro, io credo che tu sia all'altezza di questo compito. Ci proverai?» «Oh sì, sì, voglio provarci!» Il suo fervore era come un invito, ma non doveva abbracciarlo, non era ancora pronto. Sedette diritta. Bene, fra qualche minuto ti accompagnerò a conoscere la tua vera madre. Sarà a letto. È molto malata ed è ridotta a uno scheletro, ma tu non devi far capire che hai paura. Ci sarai anche tu, Sao Sao? Sì, al tuo fianco, sorrise. Quando entriamo dovrai fare cutù 3 volte, chiamarla per il suo giusto nome, che è vera madre, e annunciarle che sei un figlio della casa dei Wu. Lo ricorderai? Sì, fece lui. Annuì deciso. Sì, lei è la mia vera madre e io sono un figlio della casa dei Wu. Può darsi che tua madre ti parli. In tal caso dovrai fare quel che ti dice. Ciò la renderà molto felice in un momento molto triste. Sta per morire? Sì. Il bambino si morse un labbro, la fronte corrugata. Tu mi terrai per mano? Lei scosse la testa. No, ma sarò accanto a te. Oh, non possiamo farlo domani? Chiese lui, speranzoso. No, devi farlo ora. Le due serve avevano preparato la stanza. Le medicine erano state nascoste, gli odori mascherati con l'incenso e la moribonda sollevata sui cuscini in modo che sembrasse seduta. La sua faccia era incipriata, le guance e le labbra imbellettate. Un perfetto sopracciglio a forma di salice le era stato disegnato sopra ciascun occhio e un turbante nascondeva i suoi capelli spettinati. Alle orecchie portava un paio di pendenti di giada che facevano sembrare più lungo il suo volto. Le sue dita inanellate, avvizzite e raggrinzite come le zampe di un vecchio gallo, riposavano sulla trapunta. Quando la porta si aprì, le serve scivolarono via, asciugandosi gli occhi con le maniche. Luna di primavera e piccolo tesoro si diressero insieme verso il letto. Por por, vostro figlio è arrivato. Gioia di Loto sollevò una mano. Subito il bambino cadde in ginocchio e fece cutù. Poi si tirò in piedi e disse: Vera madre, sono Wu, tuo figlio. Socchiudendo lentamente la bocca, come se le richiedesse tutta la forza che aveva, Gioia di Loto sussurrò: Figlio, bene. Piccolo tesoro guardò Luna di primavera come per chiederle cosa dovesse fare adesso. Gioia di Loto parlò di nuovo. Vieni, prendi la mia mano. Il bambino ubbidì e una lacrima scivolò sulle guance della moribonda, tracciando una linea giallastra sulla cipria. Quella notte Gioia di Loto morì. Per 3 giorni e 3 notti Luna di primavera, il bambino e le serve piansero accanto alla bara e dopo che fu sigillata, tornarono spesso nella stanza per renderle omaggio, aspettando la primavera per il viaggio di ritorno al villaggio delle canne.